Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissime, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio da Leonardo Maria Pompei. Santa giornata a tutti e ben ritrovati appunto ad una nuova puntata di Spazio Giovane. La volta scorsa, trattando degli argomenti della inseminazione e della fecondazione artificiale, abbiamo concluso la trattazione del secondo blocco, diciamo così, dei peccati impuri, del secondo genere, che abbiamo identificato nell'essere appunto i peccati commessi contro la vita. Oggi si apre un capitolo nuovo, tra l'altro vi annuncio subito di strettissima e scottante attualità, che è il primo della terza, diciamo, serie di peccati contro il sesto comandamento. Si tratta, per chi ricorda l'elenco introduttorio che abbiamo fatto a suo tempo, dei comportamenti che offendono direttamente la legge naturale. Credo che abbiamo fatto riferimento a questa categoria in qualche altra puntata. Voi mi perdonerete se purtroppo la mia memoria non riesce sempre a stare dietro a tutte le cose che faccio, quindi non ricordo poi quando è che di un dato argomento ne ho parlato recentemente in quale sede, quindi mi dispiace se magari sarò un pochino ripetitivo. Comunque, si tratta, di una serie di vere e proprie, come dire, aberrazioni dal punto di vista oggettivo, che sono sommamente invise all'Altissimo. Ora, cos'è questa legge naturale? Perdonatemi, vi ripeto se sto facendo una ripetizione di argomento di cosa già trattata. La legge naturale, la Chiesa l'ha identificata, ecco, sulla scorta di alcuni passi del Nuovo Testamento e non solo, c'è anche qualche passaggio nell'Antico Testamento, come, diciamo, quell'insieme di norme basilari, etiche e sotto alcuni aspetti anche non solo strettamente etiche, comunque quelle etiche sono quelle che a noi interessano di più, che il Signore ha rivelato non attraverso un intervento esplicito come la rivelazione positiva, cioè attraverso delle formulazioni espresse che ci hanno fatto conoscere in qualche modo una sua volontà che prima di tali determinazioni rimaneva nascosta, ma sono rinvenibili dalla ragione umana, anche non illuminata dalla fede, semplicemente osservando il creato, quella che noi chiamiamo la natura, così come è. D'accordo? E sulla base di questa osservazione, trarne le dovute conseguenze. La distinzione è molto importante perché oggi che si parla tanto e a volte non poco a sproposito di dialogo con il mondo, con i laici, con i membri delle altre religioni, eccetera, puoi capire quanto sia importante mantenere questo concetto. Io ricordo bene, come per alcune grandi battaglie, però di questo sì, credo che ne abbiamo parlato una volta scorsa, la Chiesa ha sempre tenuto ad evidenziare che stava alzando la voce, combattendo, non per ragioni confessionali, ma per ragioni fondate sulla legge naturale. Questo è molto importante, ragazzi, perché state attenti, se io faccio appello soltanto, alle cose che conosco dalla fede, specialmente su alcune tematiche come quelle che avete già capito tutti, il tema penso che affronteremo, che oggi andremo a vedere, e l'obiezione è questa, dice: benissimo, questo è il cattolicesimo, questa è la tua fede, va bene, se la tua fede crede a queste cose, tienitela per te, io però non ci credo a queste cose, non condivido queste cose e quindi tu non puoi impormi il tuo credo e quindi conseguentemente, specialmente se si trova in uno stato che oggi c'è questa parola con cui tutti si sciacquano la bocca abusandone e travisandola, laico, Tu non condividi queste cose, ma gli altri sì, e quindi lascia che gli altri possano agire come meglio credono, senza dover imporre il tuo credo. Se voi fate attenzione, per esempio, ragazzi, a leggere bene alcune espressioni del Vangelo, per esempio, quando Gesù parla dell'indissolubilità del matrimonio, no? Noi diciamo sempre, lo dico anch'io ai corsi prematrimoniali, no? Che uno dei discriminanti fondamentali tra il matrimonio celebrato in chiesa, quindi il matrimonio sacramento, e il matrimonio celebrato in comune, qual è? Penso che lo sanno più o meno tutti, no? Che il matrimonio celebrato in chiesa è indissolubile, mentre il matrimonio celebrato in comune è tranquillamente soggiacente alla legge del divorzio. Tant'è vero che se due persone che sono sposate in chiesa poi vanno a divorziare, si dice che il divorzio rimuove gli effetti civili, ma non il sacramento del matrimonio. Questo sembrerebbe un discorso che non faccio, che non fa una piega, però quando Gesù ha affermato in termini chiari e sacrosanti l'indissolubilità del matrimonio, e lo si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, quando gli fecero la famosa domanda se era lecito o no il divorzio, no? Penso che abbiamo accennato nella puntata precedente anche a questo. Gesù non dice il matrimonio è indissolubile perché te lo dico io. Quindi io istituirò un sacramento che è il sacramento del matrimonio e sulla base di questo sacramento, se tu lo celebri, il matrimonio diventa indissolubile. Gesù non fa questo discorso. Gesù rimanda gli ascoltatori alla creazione originaria, quindi ad Adamo ed Eva, e dice cosa sta scritto nel libro della Genesi? Che quando Adamo ed Eva, diciamo così, contraggono tra virgolette il primo matrimonio, quindi per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, non celebrano nessun sacramento del matrimonio, ma la parola di Dio dice nel momento in cui si uniscono diventano una cosa sola e l'uomo non sciolga ciò che Dio ha unito. E Adamo ed Eva non si sono sposati in chiesa con la marcia nuziale davanti a un prete, lo capite questo qui, no? Quindi, cosa sta dicendo Gesù? Dice certamente che l'indissolubilità sarà poi prerogativa principale del matrimonio sacramento, ma sta attento che questo requisito del matrimonio è fondato sulla natura stessa del matrimonio. Quindi non è, come dire, un requisito aggiunto in più dalla rivelazione, ma in se stesso, per come Dio l'ha pensato, il matrimonio per sua natura è indissolubile. Guardate che non si tratta di questione di lana caprina, sono cose molto importanti, perché nel corso della storia poi tante scelte che sono state fatte anche a livello, come dire, di stati, di legislazione, sono state operate anche in base a questi principi. E una delle cose, l'ho detto tante volte, principali, qui vi parlo anche, come dire, da ex studioso di diritto, una delle operazioni principali che è stata fatta da dopo l'illuminismo in poi, il cosiddetto positivismo giuridico, fine del 1800, Mommsen e Kelsen in Germania, fu quello di negare l'esistenza e la rilevanza giuridica della cosiddetta legge naturale, per lasciare esattamente come oggi è successo, il fondamento normativo dell'obbligatorietà delle leggi sulla base del puro arbitrio. Adesso non vorrei fare le cose troppo difficili, vi dico in due parole cosa dice Kelsen. Allora, voi avete mai pensato di perché io devo obbedire alle leggi dello Stato, per esempio? Perché anche San Pietro, nel Nuovo Testamento, e anche San Paolo esortano ad ubbidire alle leggi dell'autorità costituite. Ma perché? Cioè, qual è il fondamento della obbligatorietà di una norma dello Stato? Qual è? Allora, la dottrina classica, anche occidentale, diceva questo: il fondamento dell'obbligatorietà delle leggi dello Stato è che le leggi dello Stato sono al servizio del bene e della morale, di cui garantiscono il minimo e lo stretto indispensabile. Quindi, L'ordinamento giuridico, così si diceva, rappresentava il minimo etico per la civiltà di un popolo. Conseguentemente erano oggetto di tutela normativa anche alcuni valori che oggi sono completamente scomparsi dai codici civili e penali. Ed erano i benvenuti dentro gli ordinamenti giuridici anche alcuni principi della legge naturale che oggi sono completamente disattesi in tutto e in parte. Vi faccio un esempio, pensate all'articolo 29 della Costituzione. La famiglia è una società naturale, attenzione al termine che usa, fondata sul matrimonio. Vecchio codice penale, l'adulterio era un reato, l'aborto era un reato. Reati, la bestemmia era un reato. E questo non è retaggio semplicemente di uno stato confessionale, cioè dove la religione cattolica era la religione di Stato. Ma chiunque può capire che offendere la divinità, essendo, state attenti, di ragione naturale, ecco perché gli uomini di oggi sono tutti andati verso il senno, l'arrivare a capire che qualcuno di più grande di noi esista, pensate che pure Vasco Rossi, in una canzone abbastanza recente, diceva: ho bisogno di credere che c'è qualcosa più grande di me, anche se non capisco cos'è. Pensate un po'. Quindi vedete che l'esistenza della divinità, Concilio Vaticano I, perché esiste anche Concilio Vaticano I oltre a Concilio Vaticano II, ragazzi, che in pochi conoscono. Il Concilio Vaticano I ha fatto due dogmi: uno, l'infallibilità del Papa, e secondo, quello che sto dicendo, un dogma di fede, cioè la ragione umana, semplicemente sforzandosi di ragionare e di aprire gli occhi, può giungere a conoscere che una divinità, attenzione, non la Santissima Trinità, deve esistere. Come alcuni scienziati sedicenti atei, adesso non voglio uscire di tema, affermano. Quindi riprendiamo il filo del discorso: gli ordinamenti giuridici classici erano tutti quanti fondati su questi principi indiscutibili. Allora, il diritto è al servizio dell'etica, ne garantisce il minimo e quindi è aperto ad accogliere tutte le istanze della cosiddetta legge naturale, cioè quei valori insiti nello stato delle cose così come lo osserva dall'esterno qualunque persona intelligente e che Dio, come dire, ci ha lasciato ad un'osservazione, come dire, empirica, immediata e ragionevole, perché ti regoli di conseguenza a prescindere da quello che poi lui ti aggiunge con la sua rivelazione. Arrivano questi positivisti tedeschi e nasce un certo Kelsen che dice: no, stiamo a perdere tutte quante queste cose della Chiesa e queste cose strane. Il fondamento della obbligatorietà di un ordinamento giuridico, state attenti, gli ordinamenti giuridici lo traggono da se stessi. Lui scrisse un'opera, Teoria della norma fondante. Allora, da dove trae forza l'ordinamento giuridico italiano? Semplicemente dal fatto che c'è una norma fondante, così la chiama lui, che poi sarebbe quella che i vari stati contemporanei esplicitano, scusate, nella Costituzione, che dice: sono costituito come Stato? Sì. Sono costituito come Stato e come comunità di persone di un certo territorio, eccetera, eccetera. Uno. Allora, la prima norma del mio Stato è che le leggi che io faccio devono essere obbedite. Punto e basta. E conseguentemente, e dipendentemente da questa prima norma, deriva tutto l'ordinamento giuridico. Capite che c'è una differenza abissale, perché a questo punto tu non puoi più parlare oggettivamente di legge giusta o ingiusta, perché lo Stato è autoreferenziale e nel momento in cui dice: sono io che detto le mie norme semplicemente per il potere che mi viene dall'essere un ordinamento giuridico organizzato, punto e basta, posso fare qualunque norma che esiste. Il fondamento di validità di quella norma, tu non mi puoi venire a dire che quella legge è sbagliata, perché? Perché lo dice la fede, a me che me ne importa, lo dice la legge naturale, e chi l'ha detto che esiste la legge naturale? Quella legge io l'ho fatta, a seconda del tipo di sistema politico che c'è il re l'ha sottoscritta, c'è la democrazia, il Parlamento l'ha approvato, o altre cose, quello che volete, Una volta che la legge ha seguito l'iter formale di approvazione, è vincolante e tu la devi osservare, punto e basta. Perdonatemi la parentesi, adesso stiamo subito arrivando al dunque. Oggi siamo e tutti sono tutti quanti felici, beati e contenti che esistano queste cose. Attenti, questo non è, come dire, una teoria insita negli stati democratici, quindi contestare questa teoria non vuol dire ipso facto contestare la democrazia di uno Stato o la democrazia come sistema di governo, fatto, ma vuol dire mettere in guardia sul fatto che i cosiddetti stati moderni o stati laici si fondano praticamente sul distacco tra diritto e etica e morale. Quindi lo Stato diventa autoreferenziale, e questo non era altro che ciò che aveva teorizzato, per chi conosce questi autori, e lontanamente parlando cominciamo con Rousseau e con l'illuminismo, ma il culmine di questo processo è giunto con Hegel. Fenomeno che ha dato tra l'altro vita nelle sue applicazioni estreme e conseguenziali ai differenti totalitarismi nefasti degli stati totalitari di estrema destra e di estrema sinistra. E ora, come dire, è alla base delle moderne democrazie che non hanno quelle aberrazioni di questi estremi che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, ma che ne hanno però un'altra, cioè c'è una dittatura assoluta, cioè perché una volta che una cosa è formulata come legge, nessuno c'è il diritto di contestarla sul piano della giustizia o della moralità. Puoi semplicemente smontarla, se ci riesci, seguendo un meccanismo o un iter uguale e contrario a quello che l'hanno portata ad avere vigore. Pensate per esempio in questo modo alla legge sul divorzio, pensate alla legge sull'aborto, cioè chi è che oggi può venire a dire, può andare a dire in giro, la legge sul divorzio è una legge ingiusta? Ti rispondono subito, ingiusta. E a me chi è? E dove sta scritto che se io mi sposo e non vado d'accordo con la persona che mi sta vicino, devo rimanere tutta la vita a fianco a questo? E tu sei cattolico? Tu vuoi credere a questa cosa? Buon divertimento, accomodati. Sei waso free? Ti piace la croce come tutti quanti i cristiani? Beh, benvenuto, soffri. Io no, e quindi è giusto che lo Stato mi affronta la possibilità di sciogliere questo vincolo. Ma non è così. Solo che se tu dici questo è ingiusto, ti dicono, sulla base di cosa dici questo? La legge naturale che cos'è? La legge cristiana? Confessione, religione, lo Stato è laico, non ti voglio sentire. Quindi capite, siamo completamente azzerati nella possibilità di parlare. Attenzione, quando Benedetto XVI parlava di dittatura del relativismo, a questo si fa riferimento, perché uno Stato concepito in questo modo, vi ripeto, è autoreferenziale, il fondamento dell'obbligatorietà delle sue leggi dipende semplicemente da se stesso. Cos'è il relativismo? Il relativismo è quello che dice non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che per me è tale. Non è bene ciò che è bene da un punto di vista oggettivo, ma è bene ciò che io considero tale. Questo è il relativismo, che non è altro che un'applicazione moderna, oggi sto facendo forse le cose un po' troppo difficili, di un principio antichissimo, figuriamoci, che conobbe la luce, diciamo, da un punto di vista culturale in un momento di decadenza culturale, nella prima grande crisi culturale che avvenne in antica Grecia, dopo i grandi filosofi, che fu il sofismo. Il primo a dire che l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono, fu il sofista Gorgia, insieme a Protagora, altro suo collega. Quindi non esiste più un parametro oggettivo, cioè io non sono più, quindi guardate la superbia insita in questi tipi di atteggiamenti, io non sono più una persona che vive in un contesto, cioè vive dentro un mondo, vive dentro un creato, io questi giorni sto in montagna. Quando vado in giro a passeggiare mi sento, come dire, compreso, pervaso da qualcosa che è più grande di me. Cioè, l'avverti proprio tutta quanta la relatività della tua condizione umana. Cioè, qui ci stanno monti che sono millenni che stanno messi qua, alberi che ci avranno 300-400 anni di vita, si avverte proprio dentro il creato un ordine, una bellezza, un qualcosa che ti sovrasta e che ti precede. Quindi tu, con tutta la tua arroganza umana, ti senti semplicemente una parte del tutto e ti viene un atteggiamento, come dire, di quasi timore reverenziale, no? Questo vale anche da un punto di vista culturale, questo vale da un punto di vista storico, cioè quando si parla tanto di tradizione, non di tradizionalismo, l'ho detto tante volte, la tradizione è importante perché ci permette il legame tra il tempo che sto vivendo oggi, che è il 2013, dove ci sta parlando, potremmo anche essere tanto evoluti sotto tanti punti di vista. Certamente oggi abbiamo gli strumenti di comunicazione e nel 1400 questi non c'erano. Ecco, però ci sono delle cose che nel tempo si sono conservate uguali e identiche a se stesse. Cioè, e non solo, noi oggi abbiamo gli strumenti di comunicazione perché la storia e il progresso dell'uomo ha fatto un corso che è andato avanti per tappe. Io non posso assumere un atteggiamento stupido e idiota di ritenermi moderno e quindi di buttare. Sarebbe come se una persona di 43 anni, come ce l'ho quasi io adesso, quanti ce n'ho? No, 42 quasi, me ne do sempre qualcuno in più. Sarebbe come se lo rinnegassi quando sei a 10 o 11 anni, cioè quello che sono io a 42 anni oggi passa anche a quello che ero quando avevo 10-11 anni. E il legame con ciò che è stato è fondamentale anche per comprendere l'identità mia attuale di ciò che sono. Capite? Tutte queste cose sono state tutte quante tagliate ed eliminate nel nostro mondo. Allora, accipicchia, perdonatemi questa lunga parentesi, però così ci situiamo. Allora, quando si parla di peccati impuri contro natura, e tra cui, ecco, fammi sbrigare a fare questa puntata prima che sia troppo tardi, il peccato impuro contro natura, che è, avete capito, l'omosessualità, si fa riferimento a questa gamma concettuale. Cioè, abbiamo già visto, i rapporti prematrimoniali sono un peccato gravissimo davanti a Dio, però il libro della Genesi stesso, subito dopo il peccato originale, quando parla delle conseguenze di esso, dice alla donna: verso di lui sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Quindi tra i vari disordini che conseguono il peccato d'origine, c'è questo, diciamo, disordine insito nel rapporto uomo-donna. Un disordine che però altera e rovina un tipo di relazione che è fondata, termine che usa, sull'istinto, che ci accomuna alla quasi totalità dei mammiferi. Io adesso dico subito, sono rarissimi e o sommamente circoscritti i casi di, come dire, di fenomeni naturali caratterizzati dall'omosessualità. Ma su tutte le specie, andate a fare gli studi che volete, di animali esistenti, il 99,99999999 su 100, d'accordo? Si accosta, si riproduce, si avvicina attraverso il tipo di relazione sessuata. Relazione sessuata vuol dire maschio-femmina, che è anche quella dove nella totalità delle leggi di riproduzione naturali, anche extraumane, quindi al di là dell'uomo, e anche extra mammifere, che al di là dei mammiferi, che è il genere a cui apparteniamo, si rinvengono. D'accordo? Quindi, se vi ricordate il catechismo, adesso per ovviamente voi ricordate queste cose, il catechismo non lo dicono più, esiste un particolare tipo di peccati, che sono quattro, che si chiamano, no, esiste un particolare tipo di peccato che è il peccato impuro contro natura, che appartiene ai quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, insieme all'omicidio volontario, all'oppressione dei poveri, tema oggi tanto caro giustamente a tante persone, e insieme alla frode del giusto salario agli operai. E È una categoria privilegiata. Si tratta, dice il Catechismo, di peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, cioè per la loro gravità intrinseca. C'è anche l'omicidio volontario, scusate, sono quattro: omicidio volontario, peccato impuro contro natura, oppressione dei poveri e frode della giusta mercede agli operai. Allora, questi quattro peccati, dice il Catechismo, si dice gridano vendetta al cospetto di Dio, cioè rappresentano una sorta di provocazione della divina giustizia, cioè i peccati sono sempre una cosa cattiva, i peccati mortali sono sempre una cosa grave. Io adesso non mi metto a dire tutte le cose che ho detto nella puntata precedente, stiamo alla 46esima, non mi ricordo neanche che tipo di puntata stiamo, quindi uno può andare a riapprofondire tante cose, anche il concetto di peccato mortale, veniale, eccetera. Però un peccato che grida vendetta vuol dire che è di particolare gravità, cioè rappresenta, ripeto, una provocazione della divina giustizia che, pur essendo ordinariamente lenta a punire, cosa ci dice la scrittura? Il Signore è lento all'ira e ricco di misericordia. Quindi, lenta a punire e incline alla clemenza, tuttavia dinanzi a queste aberrazioni non può non intervenire in maniera assai severa, e a volte anche con castighi gravi, non solo nell'altra vita, ma anche in questa vita presente. Adesso lo vedremo subito, come, dopo aver recitato l'Ave Maria, perché dall'orologio mi sembra che siamo arrivati alle ore 17. Lo facciamo insieme. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, c'era qualcuno, qualche giorno fa, e su Facebook mi ha chiesto, dice, padre, ma esistono passi dell'Antico Testamento, scusate, del Nuovo Testamento, dove si parla chiaramente in tema di omosessualità? Io gli ho risposto, ce ne stanno due, sì, due chiari. Uno è quello che vi leggerò adesso, l'altro non lo leggerò, ma potete andare a leggerlo da solo. E la lettera cattolica di San Giuda Apostolo, San Giuda, ricordate sempre che non è Giuda Iscariota, Giuda è il cugino di Nostro Signore, che insieme al fratello di carne, Giacomo, ha scritto una lettera, e queste due lettere di San Giuda e di San Giacomo fanno parte del canone cattolico del Nuovo Testamento, insieme alla lettera di San Paolo, alle due lettere di San Pietro, alle tre lettere di San Giovanni e al libro dell'Apocalisse. Allora, c'è come San Paolo parla di questo tema nella lettera ai Romani. Io adesso vi leggo testualmente la citazione, perché parlando di questo tema, bollandolo come cosa grave, fa riferimento però alla legge naturale. Quindi, perché questo dobbiamo sempre tenerlo presente, noi non dobbiamo, quando parliamo di questo tema, soltanto fare appello a motivazioni di tipo confessionale, meno che mai oggi, dove si sta imponendo e ci vorrebbero imporre una dittatura fino a fare di queste categorie di persone che hanno fatto le loro scelte, voi sapete che il Padre Eterno ha dato i 10 comandamenti, però non è che dinanzi ai 10 comandamenti sta col fucile puntato che appena ne trasgredisci uno ti scarica il caricatore addosso e ti fulmina all'istante. Non mi sembra che il nostro Signore faccia così. San Paolo dice che il Signore non ha dato a nessuno il permesso di peccare, quindi se tu lo offendi, sai benissimo che tu ti vai a inguagliare nei confronti della sua giustizia, che esiste, non esiste soltanto la Divina Misericordia. Certo, se poi un giorno arriverà il pentimento, il Signore è sempre disposto a perdonarti. Ecco, perdonarti però, poi esigendo comunque la riparazione e l'espiazione dei peccati che comunque hai commesso. Quindi anche se c'è il perdono vuol dire che all'inferno non ci vai, la dannazione non c'è, la grazia la puoi recuperare, se ti converti chiaramente, questo non puoi darlo per scontato, ma c'è comunque poi la riparazione della Divina Giustizia, altrimenti non esisterebbe il purgatorio. Non ci direbbero quando ci andiamo a confessare come penitenza fai questo e fai quest'altro, eccetera, eccetera, no? Però, ripeto, su questo tema, adesso cito San Paolo, si deve continuare a fare riferimento alla legge naturale, anche se oggi non la vogliono stare a sentire, perché l'intrinseca cattiveria di questa, come dire, tipologia particolare di peccato deve essere data la possibilità ad ogni uomo di buona volontà, quindi che non abbia pregiudizi ideologici. State attenti che i pregiudizi ideologici che hanno i nuovi detentori del potere sono molto più gravi e molto più grandi di quelli di cui hanno accusato e accusano essere titolari noi cattolici con il nostro dogmatismo e con tutte le nostre cose. Ecco. Perché guai a te se ti azzardi a dire mezza parola che si discosti dall'opinione dominante o da quello che dicono alcuni signori che hanno monopolizzato i luoghi di potere, i luoghi della giustizia o i luoghi dell'informazione. Sei immediatamente completamente out, completamente fuori, completamente bandito dal consorzio civile, ghettizzato, ridicolizzato, passato al mondo come retrograda, come reazionario e non so che altri epiteti si possono inventare. Vi leggo la citazione della prima della lettera di San Paolo ai Romani, il capitolo primo, la leggo in forma, diciamo, completa, quindi dal versetto 24 al versetto 32. Questa è parola di San Paolo Apostolo. Quindi tra poco, se passano alcune leggi, che grazie a Dio, grazie anche a una certa mobilitazione che poi inviterò tutti quanti a continuare, sono state rimandate, ecco, non ancora chiuse, la discussione a settembre, quindi per un po' si può ancora parlare senza rischiare di andare a finire in galera. E primo capitolo della lettera di San Paolo, quindi vuol dire che tra poco, se proveranno questa legge, dovremo andare in paradiso a acchiappare San Paolo e l'anima di San Paolo sta in paradiso e portarla in galera, per queste cose l'ha dette lui, d'accordo? Non l'ha dette Don Leonardo, adesso Don Leonardo cita il pensiero di San Paolo. Vado, perciò, dice, sì, il soggetto sottinteso sono i pagani, lo vedete leggendo da qualche versetto prima. Perciò questi pagani, sottinteso, Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna, e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Punto. Amen. Prima parte della citazione. Seconda parte. Per questo Dio li ha abbandonati, sono termini di San Paolo, a passioni infami. Passioni infami le chiama San Paolo. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. E ugualmente anche gli uomini. Dice, che significa che le donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura? La frase è un pochino ambigua, perché lo vedremo. Ci sono due tipologie di rapporti contro natura. Il rapporto contro natura, che consiste nel peccato impuro di tipo omosessuale, e i rapporti contro natura, che sono delle alterazioni aberranti nel rapporto tra uomo e donna. Quindi, di quale tipi di rapporti contro natura sta parlando San Paolo? Però poi continua, riprendo la situazione, egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, quindi qui non è qui assolutamente in equivoco l'espressione, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini. D'accordo? Ripeto, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento. Sto calcando volutamente su alcune espressioni. Queste sono espressioni di San Paolo. Quando leggiamo San Paolo in chiesa non si dice parola di San Paolo, si dice parola di Dio. Chiaro? Ecco. Continua la citazione. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di una intelligenza depravata. Ripeto, intelligenza depravata. Sono parole di San Paolo, traduzione della CEI. Sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore e senza misericordia. Basta? E pur conoscendo il giudizio di Dio, attenzione, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, dice San Paolo, dice Leonardo, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. Clarus, Romani 1:24-32. Prima di commentare, è bene riprendere alcune espressioni, no? Sono espressioni forti, le ripeto, passioni infami, atti ignominiosi uomini con uomini, comportamento che è da definire come traviamento e intelligenza che è da definire depravata. Queste cose meritano la morte non soltanto da parte di chi le commette, ma anche in chi approva chi le fa. Ripeto, lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 1, versetti 24-32. Se poi vogliamo cambiare religione e dire che quando leggeremo questa cosa, diciamo, parola di San Paolo che era malato di mente, era un mezzo misogino, era tutto rigido, esagerato, vabbè, io a questo punto mi tolgo la veste talare, smetto di fare il prete e comincio a fare altro nella vita, perché voi sapete benissimo che la fede cattolica si fonda, tra i suoi cardini fondanti, sulla cosiddetta rivelazione, la rivelazione che ha il suo principio primo nella parola di Dio scritta, cioè nella Bibbia, e poi nella tradizione e nel Magistero. Sono, diciamo, i tre, come dire, nuclei da cui la rivelazione trae origine e dipendenza. Ora, quando la Bibbia dice qualcosa in termini chiari, il discorso è chiuso. Ve l'ho già detto quando abbiamo parlato del divorzio. Quando Gesù dice: se qualcuno ripudia una donna e ne sposa un'altra, commette adulterio, e chi sposa una ripudiata commette adulterio, non ci potrà essere mai nessun papa voglia rompere con questo nuovo che sta venendo, che dirà: diamo la comunione ai divorziati. Non è possibile, perché il papa non può andare contro le parole di nostro Signore Gesù Cristo, e sicuramente non lo farà né questo che c'è né nessun altro. Se un papa facesse una cosa di questo genere, vorrebbe dire che andiamo a dare vita alla ipotesi, che per quanto mi riguarda resta di pura fantasia, ma chi ha studiato la teologia la conosce, è stata fatta qualche secolo indietro, del papa eretico. Perché che finora, che io sappia, da quello che so, non è mai successo. Ma ovviamente un papa dicesse una cosa di questo genere, domanda grande: è papa veramente? Può conservare ancora il titolo di successore di Pietro, colui che deve confermare i fratelli nella fede, se, cosa, sto parlando di ipotesi assolutamente assurde, dovesse andare contro una cosa così chiara della rivelazione? Poi quando vanno a dire: facciamo il sacerdozio delle donne, ancora, quando Giovanni Paolo II ha chiuso la questione, l'ha chiusa, mi dispiace tanto, in termini rigorosi, perché anche se qualcuno nega che quel pronunciamento sia da ritenere come ex cattedra, l'espressione che Giovanni Paolo II usa nel motu proprio in cui definì questa questione è forte. Non ha detto parlo ex cattedra, ma ha detto: io, in qualità di successore di Pietro, esercitando il ministero di confermare i fratelli nella fede, ma che altro devi fare? Ti devi fare il disegno. Dico che per volontà di Cristo il sacramento dell'ordine può essere amministrato soltanto un individuo battezzato di sesso maschile, e che su questa questione non c'è altro da dire e non si deve successivamente intervenire. Punto. Questo non dipende dal fatto, spero che voi siate intelligenti ragazzi, che la Chiesa è retrograda, che non vuole bene alle donne, che non si adegua con i tempi, che stiamo ancora appresso a queste cose, soltanto qualche bravo prete moderno si apre finalmente a tante questioni. Allora, il discorso è questo qui, cioè, se per assurdo, supponiamo per assurdo che un vescovo, sto facendo un altro esempio, ragazzi, per assurdo, supponiamo che un vescovo si sente male, d'accordo, oppure per sbaglio, facciamo così, perché nessun vescovo potrebbe giungere a tale follia neanche se si ammattisse, impone le mani e formula la preghiera di consacrazione su una donna battezzata. Sapete che succede? Che quella donna, prete, non ci diventa. Cioè, la conformazione a Cristo sacerdote, la consacrazione delle mani, e quindi il potere di agire in persona di Cristo, quella persona non ce l'ha. Capite? Sarebbe come se io vado a celebrare la messa con i biscotti e con la Coca-Cola e faccio proprio celebro la messa. Tutto bello, eh? Col camice, con una bella casula, con tutti i canti in gregoriano. Ma pure la messa è il rito antico, guarda, la messa, però la metto a celebrarla con i biscotti e la Coca-Cola. Io non ho la possibilità, né io né il Papa, di fare una cosa di questo genere, perché che la messa celebri col pane azimo e con il vino di uva l'ha deciso nostro Signore, capite? E nei confronti di quello che dice il nostro Signore, io devo semplicemente fare un passo indietro e adeguare, perché il sacramento funzionerà se io lo adopero come ha deciso nostro Signore. Punto e basta. Capite? Quindi, dinanzi a un testo di questo genere, il discorso da un punto di vista teorico è chiuso. No? Io potrei tranquillamente finirla qui, il discorso sull'omosessualità. Finita. Senza fare riferimento, per esempio, all'altro episodio dell'Antico Testamento, che è l'istruzione di Sodoma e Gomorra, distrutte e rase al suolo. È voglia di quello era l'Antico Testamento. Comunque sono distrutte e rase al suolo. E non ci cresce manco un filo d'erba di dove stare. Voi sapete che Sodoma ha dato il nome ad una serie di peccati, che sono alcuni peccati tipici che compiono gli omosessuali maschi. Ecco. Meglio non scendere troppo in particolare su queste cose, sono discorsi abbastanza scabrosi. Quindi dinanzi a un testo del genere che tu hai, Chiesa, riconosciuto come canonico e quindi lo hai annoverato tra i libri ispirati del Nuovo Testamento, e quindi lo leggi nella liturgia e dici al termine della lettura parola di Dio, il discorso è chiuso. È chiuso, attenzione, da un punto di vista teorico, è quello di cui ci stiamo sempre scervellando. Quindi il fenomeno, il comportamento omosessuale è gravemente disordinato, punto. Da qui a giustificare qualunque tipo di forma o di atto ingiusto, offensivo, discriminatorio, violento, cafone verso questi nostri fratelli e sorelle che tali rimangono perché sono figli di Dio e esseri umani, il passo è oceanico, cioè condannare un comportamento non vuol dire fulminare quelli che questo comportamento lo pongono in essere. Allora, dopo qua dobbiamo fulminare tutto quanto il genere umano, perché siamo tutti peccatori, ci fulminiamo tutti quanti, d'accordo? E neanche dire che questo non è un peccato più grave degli altri, perché lo è, perché appartiene ai quattro peccati che gridano dietro al cospetto di Dio, ma neanche questo giustifica forme di violenza di qualunque tipo nei confronti delle persone, uomini o donne, che abbiano fatto questa scelta. Però capite che in un ordinamento classico di discorsi tipo legge sull'omofobia, matrimoni gay o adozioni, non se ne parla nemmeno, capite? Perché trovandoli dinanzi ad una cosa, a un comportamento che viola la legge naturale, è utile che, cioè, allora, ragazzi, guardate che una volta dissi in una sede autorevole che il comportamento omosessuale non si riscontra in natura in nessun caso. Mi fu fatto notare, guarda che ci sono una o due specie di non mi ricordo chi, che in natura presentano questo tipo di comportamento. Ma capite che sono uno o due, vi rendete conto di quante specie di animali esistono nella natura? Si parla di miliardi, di miliardi, di miliardi, per cui una percentuale assolutamente irrisoria. Capite? Perché è un comportamento contrario alla legge naturale, questo punto e basta. Capite? Allora, tornando di nuovo al testo, dopo aver ripreso queste espressioni, io lo commento con voi. riprendendo alcune espressioni. Allora, si sta riferendo ai pagani, San Paolo. Dice che sono stati abbandonati da Dio all'impurità e a passioni infami. Menzionando in modo abbastanza chiaro ed esplicito la duplice forma di omosessualità, quindi capite che se nel secondo caso la specifica di uomini hanno lasciato il rapporto naturale con la donna, vuol dire che nel primo caso, quando le donne hanno cambiato i rapporti naturali, rapporti contro natura, vuol dire che sta facendo certamente riferimento all'omosessualità di tipo femminile, quindi li nomina tutti e due. E questa alterazione del rapporto naturale, dice San Paolo, è tipica di un'intelligenza depravata ed è accompagnata ordinariamente da tutta quell'altra sfilza di peccati con cui abbiamo sentito San Paolo chiudere la pericope. E ricordiamo che il discorso è chiuso non soltanto con la condanna di chi opera queste cose. Attenzione, sempre condanna del comportamento, d'accordo. Poi la condanna delle persone, il giudizio ultimo, spetta sempre al Padre Eterno, che conosce le circostanze soggettive che a noi sono ignote, per cui una persona fa alcune cose, perché le fa, quale educazione ha ricevuta, in quale contesto è cresciuto, quali problemi potrebbe avere che noi non conosciamo a livello interiore, quindi per questo che è soltanto il Padre Eterno che può giudicare la persona che compie un comportamento. Perché solo il Padre Eterno è in grado di sapere quanto quel comportamento è imputabile alla libera volontà della persona e quindi quanto è colpevole e quanto è condannabile nella persona, non in se stesso. Capite? Ecco. Voi capite che questo linguaggio è crudo e forte, uno, chiaro e netto, senza esitazioni e tentennamenti, come il linguaggio, come dire, cattolico è stato da sempre caratterizzato, purché, e su questo sia benedetto Papa Giovanni XXIII, si mantenga sempre la distinzione tra l'errore e l'errante, ma nella tradizione della Chiesa c'è sempre stato questo duplice aspetto, un linguaggio chiaro, fermo, preciso e a volte anche forte nei confronti dell'errore, unito ad un atteggiamento paterno, misericordioso, anche comprensivo, se vogliamo, nei confronti dell'errante. Ecco. Però attenzione, questo secondo atteggiamento che oggi è tanto apprezzato non comporta mai la negazione del primo, non diventa mai annientamento o giustificazione dell'errore o sua minimizzazione, mai. Per questo è una misericordia falsa. E diventa, se praticata in questo modo, assai peggiore dell'eccesso contrario, cioè di un'eccessiva severità che comporta degli atteggiamenti anche troppo rigidi o troppo severi nei confronti del colpevole. Ma tra le due cose, chi fa meno danni è quest'ultima, eh? Se uno proprio non è capace di mantenere l'equilibrio, se deve andare verso un eccesso, e questa è un'opinione mia, però io sfido a essere smentita, chi fa meno danni è un po' di più, è un maggiore rigore piuttosto che eccessivo lassismo o eliminazione del concetto di male morale. Quindi questo povero apostolo delle genti in alcune zone del mondo già sarebbe tranquillamente oggetto di denunce penali, quindi fortuna che ha scritto queste cose 2000 anni fa, che mo è morto e quindi in paradiso non lo possono andare a chiappare. Perché sapete che negli ordinamenti giuridici le condanne penali cessano con la morte, quindi anche adesso, proprio mentre stiamo andando in onda, stanno riunendosi, sapete, questi giorni non si parla di altro che adesso devono mandare in galera Berlusconi, ma se muore stanotte, immaginate quelli che odiano Berlusconi, che nervi che gli prendono, se muore dall'altra parte la galera non c'è, certamente ciascuno di noi fa i conti sempre con la divina giustizia, ma la galera, le patrie galere dall'altra parte non ci stanno, quindi la giustizia umana vale per il pianeta Terra. Allora, è ovvio che dinanzi ad un linguaggio di questo genere appare, come dire palese, è quasi un eufemismo, la distanza enorme tra queste affermazioni e l'acquiescenza, spesso connivente, e quindi colpevole, a volte codarda e certamente condannabile, di non pochi cattolici dinanzi alle pretese sempre più dilaganti di innumerevoli lobbies, oggi termine che va di moda, ma vero, omosessuali, che si stanno sforzando, ci sono già riusciti in varie parti del mondo, a far dichiarare la normalità, non solo la normalità, ma quasi la situazione di privilegio di alcuni comportamenti che rappresentano, da un punto di vista oggettivo, una evidentissima alterazione del diritto naturale. Cioè, dicono, io non seguo queste cose, ma dicono, quando fanno le sfilate di pessimo gusto, tra l'altro, proprio perché sapete, poi il male va sempre d'accordo con il brutto di queste cose, gay pride, eccetera, dicono che ci sono a sostegno di questi nostri fratelli e sorelle che sfilano orgogliosi di questo loro status, famiglie complete di papà, mamma e figli, che dicono, ma giusto, facciano pure, e qualcuno, dicono a quello che mi raccontano, affermerebbe di essere credente, cristiano, cattolico, e quindi di non scandalizzarsi affatto di queste cose, pur essendo credente, cristiano e cattolico. Voi dovete anche pensare che adesso recentemente, queste cose le trovate negli scritti di Joseph Nicolosi, uno psichiatra che passa tanti guai, americano, cattolico, che è, diciamo, che si è inventato una terapia psicoterapica per aiutare questi fratelli e sorelle, con estremo rispetto e con estrema carità, a prendere coscienza di una problematicità di una certa situazione, per intraprendere un cammino che li possa portare ad un cambiamento. E fino a qualche tempo fa, non so se gliel'hanno oscurato, era consultabile il sito che vi cito, www.peoplecanchange.com, dovete leggere però in inglese, dove ci sono decine, anzi centinaia di testimonianze di ex gay o lesbiche che hanno fatto un percorso con questo sant'uomo e hanno completamente compreso le radici di alcuni comportamenti e riavviatosi verso un tipo di sessualità orientata in senso naturale, cioè relazione sessuata nel rapporto dimorfico uomo-donna, e sono felicemente sposati con figli. D'accordo? Queste sono cose che non sentite dire in giro. Questo ha scritto due libri, io adesso sono fuori sede, quindi non posso darvi titoli, però già martedì prossimo, se mi ricordo, prima della trasmissione, li vado a riprendere, e sono da leggere, che smentisce tanti luoghi comuni e tante stupidaggini su questo tipo di problematica, tipo che sia un fatto normale, tipo che sia un fatto congenito, tipo che sia un fatto... Non è niente vero. Bisogna essere ben formati su questo. Ecco. Allora, su questo tema, ripeto, dobbiamo essere attenti, perché uno dei segni preoccupanti di questa nostra, dicono evoluta, ma per certi aspetti molto involuta, civiltà, è stato proprio l'alterazione colpevole, voluta e premeditata del vero e del bene, cioè oggi si chiama bene il male e male il bene. Ricordo sempre che qualche sant'uomo, l'ho già detto in altre circostanze, ha ammonito dicendo che il male dilaga anche per colpa di coloro che, dovendo denunciarlo, tacciono. Allora, noi cristiani non ci siamo mai fermati e non abbiamo paura quando si tratta del bene e del male oggettivo. Ripeto, il bene e il male oggettivo, non le invettive ad personam contro i colpevoli. Ma sul bene e il male oggettivo non si può tacere. È noto purtroppo, e scusatemi se dico, come anche alcuni membri della classe politica italiana, che si definiscono cattolici, hanno, pur fra molti ipocriti, perdonatemi, per non dire ridicoli, distinguo, manifestare atteggiamenti di, tra virgolette, civile apertura e tolleranza verso questa materia. Con la Chiesa, quando parlo di chiesa non parlo di uomini di chiesa, perché subito su questo tema cominciano subito a dirti: ah, guardati dentro casa tua, non sai cosa hanno fatto i preti. Quello che hanno fatto i preti, si sono macchiati di questo delitto, se la vedranno con il Padre Eterno. Ma la chiesa non si identifica con i peccati di qualche prete folle che ha completamente perso il senno. La chiesa è altra cosa, ne abbiamo parlato in altre sedi. La chiesa non si identifica con alcuni discutibili uomini di chiesa o membri di essa. Ha sempre continuato a mantenere alta la bandiera della verità, basta aprire il catechismo della Chiesa Cattolica, affermando la distinzione tra peccato e peccatore e ribadendo la duplice condanna sia dei comportamenti che degli atti omosessuali, così come degli atti di odio, di ingiusta discriminazione, di violenza e di oppressione compiuti nei confronti delle persone vittime di questo peccato, che essa, la Chiesa, al pari di altri peccatori, considera come suoi figli e come destinatari delle sue cure amorevoli, tese a sottrarle tese a sottrarle questi nostri fratelli dalle spire sataniche e dai magli di questi vizi. D'accordo? Ben ricordando le parole dell'Apostolo, secondo le quali abbiamo ascoltato, gli autori di tali cose meritano la morte, non vuol dire che li mettiamo al muro, è un modo per dire: questi sono peccati mortali, peccano mortalmente e quindi, se non si ravvedono, vanno incontro alla morte eterna. Questo era il significato dell'espressione di San Paolo. Ora concludo con queste piccole riflessioni. La legge naturale è il luogo primo, questo ricordiamolo, come abbiamo aperto questa trasmissione, in cui si manifesta per tutti, cattolici e non cattolici, atei, credenti, orientali, occidentali, il volere dell'Altissimo. Il creatore di tutte le cose ha stabilito delle leggi lui, non noi, che sono inviolabili e categoriche, il cui stravolgimento, che oggi l'uomo sta facendo a gara a tutti i livelli per compierlo, ma non comporta altro che miseria, degradazione, disordine e immoralità. Quindi, per quante leggi e per quante strane norme possano porre in essere, non ci starà mai nessuna legge e nessuna cultura che potranno rendere lecito il vizio e il peccato agli occhi di Dio. Mai. Quindi, quando anche in Italia dovessero passare leggi balorde, questo non minimizza o non diminuisce minimamente il disordine morale di certi tipi di comportamenti agli occhi di Dio. È inutile, così come il fatto che la legge consente il divorzio, non è che tu divorzi oggi non fai niente di male. Davanti a Dio il divorzio resta quello che era 50 anni fa, 60 anni fa e 100 anni fa. Stessa cosa vale per l'aborto, uguale. Sono gravemente colpevoli agli occhi di Dio chi ha osato porre in essere queste leggi, e ne risponderanno. Se sono defunti, ne hanno già risposto. E io vi dico, e qui parlo a nome mio, che hanno fatto lacrime amare quando si sono trovati dinanzi al Padre Eterno per queste cose che hanno fatto, e ne avranno rimorso per tutta l'eternità. Speriamo, e concludo, che presto i cristiani, soprattutto i cattolici, ritrovino il coraggio della testimonianza, non temendo, ce lo dice Gesù nel Vangelo, coloro che potranno anche arrivare ad uccidere il nostro corpo. Non temete coloro che possono uccidere il corpo e dopo non possono fare nulla, ma piuttosto colui che ha il potere di gettare corpo e anima, soprattutto dei vigli e dei pusillanimi, cioè di quelli che indietreggiano dinanzi a queste battaglie che devono essere combattute, all'inferno. Vergognarsi di lui e delle sue paure, delle sue parole, scusate, per paura di passare per obsoleti o addirittura incivili, così ci chiamerebbero oggi, vorrà dire accettare che quando ci troveremo davanti al suo cospetto anche lui si vergognerà di noi. Ce l'ha detto nel Vangelo: chi si vergognerà di me e delle mie parole, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Quindi, si vergogna di noi che ci siamo vergognati di alzare la voce per stigmatizzare proprio ciò che è realmente assolutamente vergognoso. Noi non dobbiamo vergognarci di combattere ciò che è vergognoso, ma dobbiamo fare il possibile perché l'uomo si renda conto di quali sono le cose di cui gloriarsi, il bene e la virtù, e di quali cose sono di cui vergognarsi, il male e il vizio, oggi e ieri e sempre. Su questo punto, come su altri, la legge di Dio è, rimane e sempre sarà la stessa. Io vi saluto tutti, vi do appuntamento, se Dio vuole, la prossima settimana. Ave Maria.